Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda la puntata, sapete, molti di voi lo sanno, essendo venerdì, avremo anche la poco invidiabile classifica della settimana sugli sprechi della pubblica o le inefficienze di denaro pubblico, sprechi di denaro pubblico o inefficienze quando si usa denaro pubblico. Parleremo anche chiaramente di nuovo della vicenda delle banche, delle due banche venete. Perché? Perché non ci sono in questo momento novità, però girano voci di possibili novità dopo che tutto sembrava in discesa. Ce ne occuperemo alle 18:15 durante l'approfondimento. Devo dire che oggi il ministro Padoan, ma soprattutto anche il premier Paolo Gentiloni, rispondendo a una domanda sulle banche venete nella conferenza stampa a Bruxelles, ha detto che insomma verranno garantiti i risparmiatori. Bruxelles ha detto che sul dossier delle banche venete c'è un clima positivo, anche se non mancano i nodi da sciogliere. E Gentiloni, ascoltiamo Gentiloni sulle banche venete. Ha detto esattamente: garantiremo i risparmiatori, siamo in contatto continuo con le autorità europee competenti. Stiamo seguendo in continuo contatto tra il Ministero dell'Economia, le autorità finanziarie italiane, le autorità europee, la situazione. Naturalmente, se ci saranno decisioni da prendere, le valuteremo. E l'unica cosa che voglio dire è che siamo in contatto continuo con le autorità europee competenti e che la garanzia per quanto riguarda i risparmiatori, i correntisti, nelle discussioni che stiamo facendo è una garanzia che mi sento di confermare totalmente. Meno contento invece è, secondo le dichiarazioni, il presidente della Procura di Vicenza Gianni Mion, che ha detto: ora tutti adesso pensano basti un euro, io non posso valutare la proposta di Banca Intesa, non mi posso lamentare dei professori, io sono stato bocciato, è stato bocciato tutto, le persone, il piano e pure io. Ha detto Mion poi: i deflussi dalla Procura di Vicenza si sono fermati, ma ormai è inutile prendersene con i professori. In merito agli ultimi sviluppi con la proposta arrivata da Intesa San Paolo, ha aggiunto: beati loro, su Intesa San Paolo, che sembra avere la botte piena e la moglie ubriaca. Vi arriveremo per capire anche che cosa succede, che cosa succederà a correntisti e dipendenti. La cifra sta salendo, ma adesso, ripeto, vi arriveremo anche in base al piano. Sappiamo che tutta la situazione era stata aggravata dal fatto che l'Europa avesse chiesto 1 miliardo di fondi privati. Il conto per lo Stato attualmente si parla di 3,5 miliardi sulla parte della bad bank, cioè sulla banca che non vorrebbe rilevare Intesa San Paolo perché vuole prendersi solo gli asset sani di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Le cifre sono incerte comunque, perché a carico dello Stato c'è chi dice che il conto potrebbe lievitare fino a 5-6 miliardi. A questo punto chiaramente non entrerebbe lo Stato, come previsto dal piano iniziale sull'aumento di capitale, ma entrerebbe perché si prenderebbe la bad bank nella proposta di Intesa San Paolo. Visto che parliamo di banche venete e di titoli come Intesa San Paolo quotati, diamo anche le variazioni di borsa in questo momento, quando si va verso la chiusura Di positivo c'è Prismian più 90, Azimut più 20, Mediaset più 0,60 come IUX, Santaportè, Luxottica. Invece Salvatore Ferragamo perde 2,80, Brembo 2%, Mediobanca l'1,80, UBI meno 1,5 come A2A, l'1,1 lo perdono Fineco Bank, Ferrari e Banco BPM, lo 0,90 Fiat Chrysler. Poco mosse come i sedenti delle altre banche, nel caso specifico di Intesa San Paolo c'è un guadagno dello 0,30% come quello di Banca Generali. Complessivamente l'indice perde lo 0,40%, mentre Parigi fa meno 0,30, Francoforte meno 0,50 e Londra meno 0,10%. Il Dow Jones è invariato, quindi sostanzialmente Milano è in linea come calo leggero con le altre borse europee. Partiamo dalla notizia in breve. L'indice PMI manifatturiero monitorato a livello europeo è salito a 57,3 punti a giugno rispetto a maggio. Al di là dei punti che dicono poco, la cosa interessante è che si tratta del livello più alto dell'indice manifatturiero dell'area euro dall'aprile del 2011. Quello dei servizi invece è leggermente calato da 56,3 a 54,7 punti. Restando nelle notizie di carattere europeo, vi hanno raccontato i nostri GR24 che, nonostante l'apertura, diciamo così, di Theresa May ieri, nessun cittadino dell'Unione Europea dovrà lasciare la Gran Bretagna. May avrebbe proposto la residenza piena con tutti i diritti connessi ai cittadini europei residenti nel suo in Gran Bretagna, nel Regno Unito, da almeno 5 anni. Theresa May ha detto al termine del Consiglio europeo: abbiamo fatto un'offerta giusta e seria, ma vogliamo anche certezza per i milioni di britannici che vivono nell'Unione Europea. Il Regno Unito lascerà l'Unione Europea, ma non l'Europa, ha ribadito la May, aggiungendo che il suo paese vuole una partnership profonda e speciale con l'Unione Europea. È un po' diverso rispetto alla hard Brexit che propose non più tardi a marzo di quest'anno. È chiaro che la May risente della sconfitta elettorale, dei problemi che ha in casa di tenuta della maggioranza, molti la danno già per uscente, quindi cerca di ammorbidire le posizioni, anche perché, ripeto, al di là di chi tifa per la Brexit, di chi non tifa per la Brexit, il problema è che dopo un anno la Gran Bretagna è ancora in totale confusione mentale su che tipo di Brexit vuole. Tant'è che oggi ha risposto il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, entrando al vertice europeo, ha detto: l'offerta di Theresa May è un primo passo, ma non è sufficiente. E il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Donald Tusk, ha detto al termine dei vertici: la mia impressione è che la proposta della May vada al di sotto delle nostre aspettative e rischi di peggiorare la situazione per i cittadini, ma la valuteremo una volta che avremo tutti i dettagli. Anche Angela Merkel dice: un buon inizio ma non un progresso. May ha chiarito che i cittadini dell'Unione Europea che sono rimasti in Gran Bretagna per 5 anni potranno mantenere i loro pieni diritti. È un buon inizio ma non è un progresso, c'è ancora molta strada da fare. E sulla stessa linea anche il premier Gentiloni, che ha detto: ora siamo di fronte a un'occasione da non perdere, attenzione a sedersi a pensare che tutte le cose vadano bene in merito alle trattative sulla Brexit. L'Europa che conferma le proprie ragioni è anche un'Europa che deve fare i conti con le proprie difficoltà e quindi con l'esigenza di adeguare il proprio progetto. Questo poi è il senso vero della dichiarazione di Roma: andare avanti, perché se l'Europa, magari tirando un sospiro di sollievo perché da Brexit non sono arrivate altre conseguenze, il contagio non si è allargato, e allora ce ne stiamo soddisfatti, pensiamo che in fondo le cose vadano bene. Ecco, credo che questo sarebbe un errore molto grave, altrettanto grave di quello che hanno fatto coloro i quali un anno fa pensavano di poter suonare la campana a morto per l'Unione Europea. Quindi... E poi sulle il giudizio, diciamo, di Gentiloni sulla proposta di Theresa May è in linea con quello degli altri paesi europei, cioè una buona base di partenza, da tutta da verificare e non ancora soddisfacente. Abbiamo ascoltato da il primo ministro May soprattutto una proposta, un passo che lei ha voluto indirizzare ai colleghi europei relativo al tema della cittadinanza. Vedremo, nel senso che certamente è una dimostrazione di buone intenzioni, ma sono tutte cose che bisogna verificare poi nel merito, perché si parla di chi è da almeno 5 anni, bisogna capire che succede agli altri, bisogna capire in che modo queste condizioni di parità possono essere effettivamente esercitate con delle giurisdizioni che non sono le stesse. E soprattutto, e questo mi pare sia stato con grande forza ribadito ieri da Michel Barnier, bisogna che su tutte e tre le questioni che sono state messe all'inizio del percorso della discussione sull'articolo 50 si facciano dei progressi. E le questioni, come sapete, sono tre. Una è quella dei cittadini, la seconda è quella dell'Irlanda e la terza è quella del costo finanziario della interruzione da parte del Regno Unito della partecipazione all'Unione Europea. Ora, di Brexit oggi si è parlato anche nel corso di un grosso dibattito sul riciclaggio di denaro sporco e anche le mafie, si sta tenendo e mi riferisco chiaramente a trame, perché ci si è posti anche l'interrogativo se con la Brexit non possa esservi anche una fuoriuscita di soldi dalla Gran Bretagna di carattere oscuro, e quindi la possibilità che possa la Gran Bretagna diventare un motivo di richiamo per il riciclaggio di soldi sporchi. Un rischio inesistente, secondo Claudio Petroziello, che è colonnello della Guardia di Finanza, mandato come ufficiale di collegamento all'ambasciata di Londra. Però, aggiunge Petroziello, per la prima volta la Gran Bretagna sta assumendo misure di prevenzione contro il riciclaggio, tant'è che anche a lui le autorità britanniche hanno chiesto di aiutare a formare i loro investigatori. Appunto, l'ho raccontato la nostra Raffaella Calandra, che è inviata al festival Trame sulle mafie, che è in corso alla Lamezia Terme. Gli investigatori inglesi soprattutto si pongono il problema di non restare da soli a combattere un fenomeno che incomincia a mostrare i suoi effetti all'interno del paese. Tant'è che le stesse stime della National Crime Agency parlano di circa 195 miliardi di sterline riciclati attraverso il sistema finanziario britannico ogni anno. Questo naturalmente ha comportato serie riflessioni da parte delle istituzioni inglesi. Entrerà in vigore tra qualche mese un nuovo sistema che è veramente molto simile al nostro sistema delle misure di prevenzione patrimoniale, che permetterà proprio l'aggressione patrimoniale per tutti quei beni che sono stati oggetto di reinvestimenti da parte della criminalità organizzata o da parte di persone coinvolte in fenomeni di corruttela. È stato richiesto di poter fare delle chiacchierate con i funzionari che dovranno poi materialmente applicare queste nuove normative. Forse non è un caso che tutto questo avvenga proprio ora, proprio in questa fase, cioè è una conferma del fatto che si pongano quantomeno il dubbio che con una Brexit possa esserci un aumento dell'arrivo di capitali illeciti. Percepisco che hanno timore di dover affrontare un fenomeno che sicuramente c'è già, ma le stesse stime della NCA dimostrano che c'è un fenomeno che rischia di esplodere come soffocamento dell'economia legale britannica e che rischia la Brexit di portare l'istituzione britannica a dover affrontare in salita, perché sicuramente un eventuale isolamento conseguente alla Brexit non faciliterà per loro le indagini. Allora, vedo molti messaggi, dunque poi risponderemo ad alcuni di essi. Cercheremo, al di là del tono con cui mi viene chiesto, di spiegare che cosa, secondo il piano di Intesa San Paolo, dovrebbe andare nella Good Bank per rilevare proprio la di Vicenza e Veneto Bank, che cosa invece si terrà lo Stato, cioè noi, nella Bad Bank. Andiamo avanti però con il resto. Ancora qualche notizia in breve di questa giornata economico-finanziaria. Il presidente Confindustria Vincenzo Boccia ha chiesto oggi al governo di puntare per prorogare gli iperammortamenti, attuare investimenti pubblici e soprattutto sulle politiche per l'energia. Questo a margine dell'assemblea di Confindustria Firenze, prorogare strumenti come gli iperammortamenti e i dichiarati investimenti pubblici vengono poi realizzati, non solo dichiarati. Parliamo del contratto di programma ANAS, ha detto Boccia, e altri aspetti di semplificazione. La terza questione è risolvere in via definitiva la questione degli energivori, da cui c'è stato già un via libera della Comunità Europea. Tra l'altro, ha detto Boccia, ha commentato anche i dati di cui ci siamo occupati ieri nel quanto ha contributo del Nord-Est sulla crescita economica. Gli effetti di oggi dell'incremento del PIL che vediamo nel Nord-Est e in alcune aree del Sud e del Nord del paese sono l'effetto, ha detto Boccia, degli strumenti del Piano Nazionale 4.0, quindi bisogna proseguire in quella direzione. Tra l'altro, proprio il mercato dell'industria 4.0 in Italia, cioè dell'innovazione digitale dentro le imprese, ha raggiunto il valore di 1.700.000.000, più 25% nel 2015, a dimostrazione che le imprese, non dico tutte, ma buona parte, stanno utilizzando i iperammortamenti e superammortamenti quando ne hanno bisogno. Chiaramente non vai a investire solo per avere l'iperammortamento o superammortamento. Il tasso di crescita tendenziale del 30%, la stima è della School of Management del Politecnico di Milano, Osservatorio Industria 4.0, hanno preso 250 aziende manifatturiere, metà di queste ha deciso infatti di usufruire del superammortamento, che è il 140%, il 36%, quindi si arriva quasi al 90%, ha deciso invece di utilizzare l'iperammortamento, che porta al 250%, e un quarto delle imprese oggetto di analisi ha investito oltre, e investirà comunque oltre 1.000.000 di euro quest'anno. Ancora i dati sull'occupazione. Allora, l'INPS oggi diffonde il dato sui primi 4 mesi del 2017. Ci sono 559.000 posti di lavoro in più rispetto allo stesso periodo del 2016 e anche del 2015. Però, quindi, differenza tra assunzioni e cessazioni è positiva. A trainare però sono stati soprattutto i contratti a tempo determinato, più 415.000 inclusi gli stagionali e i contratti di somministrazione, seguiti da apprendistato più 47.000 e tempo indeterminato più 29.000. È crollata a maggio la cassa integrazione, meno 37%, le domande di disoccupazione sono scese del 9,2% a 104.000 domande, quindi buona la notizia sul dato complessivo, però il boom lo si è fatto soprattutto con lavori, diciamo, a tempo determinato o stagionali o contratti di somministrazione. E poi le ultime due notizie riguardano il mondo delle assicurazioni e l'Alitalia. Allora, oggi si è tenuta la relazione annuale dell'autorità di vigilanza sul mondo assicurativo, l'IVAS. I prezzi delle RC auto con la crisi e con la lotta alle frodi sono in discesa e per il quinto anno consecutivo si attestano a una media di 420 euro. Si riduce anche il divario tra le varie province, tuttavia a Napoli si paga ancora più del doppio come RC auto rispetto ad Aosta. Sentiamo questo passaggio del presidente dell'IVAS, Salvatore Rossi. Due divari, un doppio divario, cioè un divario fra l'Italia e gli altri paesi in media, e poi scavando sotto la media c'è un divario tutto italiano fra varie province, e faccio l'esempio di Napoli e di Aosta, che sono le due province messe agli estremi di questo ventaglio, e chiaramente a Napoli si paga un premio medio che è più che doppio di quello che si paga ad Aosta. Però attenzione, anche qui il divario era più grande di un terzo 3 anni fa, quindi anche questo divario si è ridotto, non si è chiuso, rimane alto, importante, però tende a ridursi col tempo. Come mai? Beh, l'ho detto già l'anno scorso, lo ripeto quest'anno, una prima spiegazione sta nella crisi economica, nella recessione lunga, profonda che abbiamo vissuto negli ultimi 7-8 anni. Quindi con la crisi economica si riduce la circolazione, riducendosi la circolazione si riducono i sinistri. Quindi le compagnie, riducendosi i costi per il pagamento, la liquidazione dei sinistri, sono dalla stessa concorrenza che c'è fra loro indotte a ridurre i premi. adesso con la ripresa economica che ormai c'è, modesta finché vi pare, ma c'è anche in Italia da un paio d'anni a questa parte, tendono a risalire questi prezzi. E poi un dato che fa molto discutere, diffuso sempre dall'IVAS, al di là dei premi assicurativi che come totale dei premi pagati alle compagnie è diminuito dell'8,7% a 134 miliardi, ha sofferto di più ramo vita, meno 11% dopo 3 anni di crescita, è particolarmente forte la riduzione delle polizze finanziarie, meno 25%, che però sono ripartite a inizio 2017. Dicevo, l'affermazione che fa discutere è quella sempre del presidente dell'IVAS Salvatore Rossi, che ha detto come in Italia esistono circa 4 milioni di polizze vita dormienti che sono scadute negli ultimi 5 anni ma che non sono mai state liquidate, 5 milioni di polizze vita che valgono almeno 4 miliardi di euro, perché i beneficiari non sanno di essere i beneficiari di queste polizze vita. La famosa polizza vita a insaputa, però non voglio entrare su temi che riguardano più così la politica o indagini in corso, per carità. Però sentiamo questo passaggio di Rossi. Ci siamo accorti che ci sono un sacco di polizze vita cosiddette dormienti, cioè scadute, ma nessuno si è presentato a richiedere la prestazione, il beneficio, il pagamento, perché in molti casi il beneficiario non sa di esserlo. In molti casi non per cattiva volontà delle compagnie stesse, ma perché appunto le norme forse sono imperfette. Quindi noi questa cosa l'abbiamo segnalata al governo dicendo: guarda che l'impianto normativo forse non è preciso abbastanza, non costringe, non incentiva le compagnie a cercare attivamente il beneficiario di questa polizza che è scaduta. Le compagnie si trincerano giustamente dietro norme che dicono, se io non so se chi ha sottoscritto la polizza è morto, non è morto, prima o dopo la scadenza della polizza, non è un problema mio, è un problema del beneficiario eventuale che non si fa vivo. Noi pensiamo che non sia esattamente così, che in realtà la gente vada a chi ha stipulato la polizza e chi ha diritto, quindi il superstite, chi ha diritto alla prestazione, vada in qualche modo aiutato a riscuoterla questa prestazione. Quindi le compagnie vadano incentivate o forzate in qualche caso a darsi da fare. Che è esattamente quello che chiedono alcuni ascoltatori, ma insomma è avvisare i beneficiari, no, chiedono alcuni ascoltatori, è quello che dice il presidente dell'IVAS, e cioè da un lato c'è, chiamiamola così, l'insipienza, l'ignoranza, la leggerezza di chi è beneficiario e non lo sa, non se lo ricorda. Adesso non posso immaginare che ci siano 5 milioni di beneficiari in saputa per 4 miliardi. Però voglio dire, la compagnia di assicurazione, così come molto sollecita quando devi pagare e devi versare i premi all'assicurazione, te lo ricorda, può anche ricordarti: mi scusi Barisoni, guardi che c'è una polizza di cui lei è beneficiario che lei non ha mai riscosso. Forse non sapeva, forse si è dimenticato Barisoni, forse si è distratto, però glielo ricordiamo. Cioè, che ci siano 5 milioni di polizze che dormono e nessuno che ricordi ai destinatari, ai beneficiari che sono lì, non è che il mondo assicurativo può solo dire: beh, non ce l'hanno chiesto. Eh no, troppo comodo. Quando io non pago, non aspetti che io mi ricordi, me lo solleciti, giusto? 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. L'ultima notizia prima di andare alla classifica dopo il meteo, ve l'ha già ricordato i nostri GR24, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è indagato dalla Procura Generale di Milano per ipotesi di turbativa d'asta riguardo a un appalto per la fornitura di alberi a Expo. Sala è indagato per falso materiale ideologico, per una presunta retrodatazione del documento che consentì di cambiare in corsa due commissari incompatibili della gara per la cosiddetta piastra. Viene accusato di avere aderito anche su pressione di esponenti politici della regione Lombardia alle richieste dell'associazione lombarda Florivivaisti, che avrebbe turbato la gara della cosiddetta piastra di servizi di Expo. Ha notificato la Procura Generale di Milano nell'atto di chiusura di indagini, ha notificato a 10 persone, tra cui società, appunto due società, la notifica di essere indagati. Sara ha detto: provo amarezza, continuerò nel mio lavoro. E il legale di Sai ha detto: non siamo stati informati, come è tutto secondo il solito copione. Sono almeno 20 anni che gli avvisi di conclusione delle indagini e gli atti dell'inchiesta si conoscono in edicola. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo adesso sul meteo, pubblicità e poi la poco invidiabile classifica del venerdì. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Dottor J e Mr. I, trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. Tre che più. La classifica della settimana. minuti, partiamo con la classifica che oggi vede al quinto posto non un tema di, noi mettiamo sia gli sprechi, malversazioni, furti di denaro pubblico, ma anche le inefficienze della pubblica amministrazione, perché lo spreco è anche quando tu non fai bene il tuo lavoro, il lavoro per cui vieni pagato, non solo quando spendi più o in alcuni casi addirittura menti o rubi. Questa vicenda ha del pazzesco. Allora, abbiamo commentato proprio una settimana fa i dati demografici dell'Istat, ricordando come il paese vede una continua riduzione degli italiani residenti, famiglie che fanno troppi pochi bambini, anche per assenza di politiche vere per la famiglia. Il caso francese l'abbiamo raccontato mille volte, o il caso dell'Alto Adige. Uniche aree sociodemografiche in Europa dove ci sono tassi di natalità che vanno sopra la soglia del ricambio, per capirci, e non dell'invecchiamento della popolazione. E perché lo dico? Perché in un paese così dovresti pensare che tutto quello che è pro demografia a partire dalle adozioni venga ampiamente sollecitato. Siamo un paese con una grossa anima cattolica in cui c'è una parte del paese che è contraria all'aborto, all'interruzione della gravidanza e quant'altro. Quindi tutte le volte che c'è la possibilità di adottare un bambino orfano dovresti pensare: siamo il paese più pronto. Allora vi racconto sta vicenda. L'ex vicepresidente della CAI, che è Commissione Adozioni Internazionali, sappiamo che le adozioni la maggior parte delle volte sono adozioni di carattere internazionale, ci sono meno bambini da adottare in Italia. Che cosa è stata rimossa? Ma io voglio raccontare questa vicenda. Era arrivata, c'era perfino un hashtag lanciata dalle coppie che stavano disperatamente aspettando una risposta dalla Commissione Adozioni Internazionali, che serve perché non puoi andare avanti. L'hashtag era hashtag Kai rispondi. Lei infatti si chiama dottoressa Silvia Della Monica, era la vicepresidente. Le coppie adottive sono anche andate sotto Palazzo Chigi per farsi sentire. Cosa succedeva? Nessuno rispondeva alle loro mail. Che cosa si è scoperto quando se n'è andata? Adesso spiegherò anche perché. La vecchia vicepresidente della CAI, ed è arrivata la nuova, il giudice minorile Laura Laera, perché tra l'altro c'è un coinvolgimento della ex vicepresidente, già magistrato ed ex senatore del PD, nella bufera per le rivelazioni sul coinvolgimento, la vicenda Airone, vabbè. Ma questa è un'altra cosa. Come arriva la nuova vicepresidente? Si scopre che il motivo per cui non c'era risposta alle mail è perché le mail non venivano aperte. Per da un anno l'ex vicepresidente dottoressa Silvia Della Monica aveva una password riservata, l'hanno craccata, come si dice in gergo, e hanno scoperto che la casella di posta elettronica istituzionale risultava piena con restituzione al mittente delle email in arrivo, ed è emerso che tale situazione si protraeva da tempo e precisamente dall'agosto del 2016. Quindi per quasi un anno la vicepresidente si è ben guardata dallo scaricare la posta elettronica. Non è una barzelletta, anche perché la pubblica amministrazione tutta ha l'obbligo di rispondere entro 60 giorni, quindi anche in 316 giorni. E molti dei messaggi in giacenza non erano neppure stati letti. Tutte le mail inviate dopo il 10 agosto, quando la casella ha esaurito lo spazio, si sono materialmente perse. Voi pensate che dramma, oltre che tempo perso, che dramma anche umano per le coppie che stanno aspettando di decidere sulla loro vita e questa e questo personaggio neanche apre le mail, non dico rispondere. Allora, e le mail si sono perse, poi ci si chiede perché nell'ultimo anno le adozioni in Italia sono crollate del 50% negli ultimi 2-3 anni, ma vedi un po'. Allora, comunque è venuto a galla tutto il tema dell'operatività insieme a quello della legittimità della commissione adozioni, perché la Della Monica non ha mai convocato per 3 anni la commissione, quindi ha gestito in maniera monocratica la commissione, non ha mai convocato la commissione gli altri membri della commissione. Per avere efficacia di legge, però, molti atti disposti, firmati e sottoscritti dal vicepresidente nel corso dei 3 anni devono essere ratificati dall'organismo collegiale, altrimenti decadono. Quindi ulteriore casino. Infatti, la nuova vicepresidente Lalaera ha annunciato subito la volontà di convocare la commissione prima dell'estate. E qui capita l'ultima chicca su cui vi invito a riflettere. Arriva la nuova vicepresidente, se ne va la vecchia. Il 15 giugno prende possesso la nuova vicepresidente e si era organizzata per fare quello che si chiama passaggio di consegne. Ci sono 150.000 numeri di protocollo dell'ufficio e quindi capire con la ex vicepresidente quello che stava diventando carta straccia, le urgenze, le priorità, quant'altro, quello che era rimasto in sospeso. Allora, la Della Monica, avvisata da tempo, ricontattata la stessa mattina del 15 giugno, non si presenta l'appuntamento fissato da mesi, la nomina della sua della Lalaera del 19 febbraio. E di fronte ad attendere c'erano il capo dipartimento, il segretario generale, il capo ufficio del personale. Mancava giusto quella che ha per 3 anni condotto da sola, combinando quello che si è visto. E quindi è partita anche una revisione delle carte che si annuncia monumentale, senza l'ausilio di chi reggeva la carica prima. Tutto questo io spero che porti a delle conseguenze dopo le indagini nei confronti dell'ex vicepresidente dottoressa Silvia Della Monica, quantomeno se, come sembra certo, non ha letto le mail da un anno, si sono perse le mail, manco le apriva, quantomeno quello. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Allora andiamo al al quarto posto, e anche qui. Ma vi sembra normale che il governo si sia dimenticato le esenzioni per le vittime, per l'esenzione dall'imposta di successione per le abitazioni distrutte dal sisma delle vittime del terremoto? Adesso io spero che il governo ci metta una pezza subito, ma che cosa è successo? Decine di parenti delle vittime, cioè tu hai già avuto una vittima durante il terremoto di Amatrice, non basta. Devi pagare anche la tassa di successione per un'abitazione che è distrutta, cioè hai un morto nella tua famiglia, hai un'abitazione distrutta, ma lo Stato si è dimenticato di esonerarti dalla tassa di successione. Ma successione su cosa? Che non c'è più l'abitazione, porca della miseria. Dunque, una tassa su cui dovrà aggiungersi probabilmente anche il costo per smaltire le macerie ereditate, perché, ahimè, ci sono stati dei morti in quel terremoto. L'errore è stato commesso dal governo, che nella manovra correttiva non ha previsto l'auspicata esenzione, un provvedimento che invece fu preso nel 2009 per il terremoto dell'Aquila. Sarebbe bastato incollare all'articolo 1 dell'ordinanza 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevedeva l'esenzione delle imposte di successione ipotecaria e catastale di bollo. Invece siamo finiti adesso in un cosiddetto vulnus burocratico. Allora, la casistica più diffusa ve la faccio io. Uno può avere ad Amatrice un genitore, un nonno, uno zio deceduti, ahimè, nel crollo dell'abitazione. La casa è distrutta, devo dare al fisco un'imposta che di solito vale qualche migliaio di euro, calcolata sul valore dell'immobile prima del crollo. Ma qui siamo veramente alla follia. no? E sulla base dell'eredità complessiva e anche del mio reddito. Poi, tra l'altro, non ho svolto le pratiche fino ad oggi perché mi aspettavo l'esenzione governativa. E quindi adesso sono anche con l'acqua alla gola, perché ho praticamente, per concludere tutto, compreso il pagamento che non è rateizzabile, devo farlo entro un anno dal decesso del mio familiare. Se il mio familiare, ahimè, è morto il 24 agosto del 2017, vuol dire, 2016, vuol dire che io ho tempo fino al 24 agosto, quando ci fu il terremoto, al 24 agosto del 2017, cioè un paio di mesi, per mettermi in regola, pagare in maniera non rateizzabile, svolgere tutte le pratiche burocratiche per una casa che non c'è più e sotto queste macerie, nella stragrande maggioranza dei casi, è anche morto il mio parente. Andiamo al terzo porto, al terzo posto. Ecco, basta non sbagliarsi con le vocali. Allora, al terzo posto mettiamo di nuovo Atac. Io non posso però fare sempre Atac. Atac e parchi. Allora, la gestione di Roma non ce l'ho con la Raggi, adesso avrà il rinvio a giudizio, non mi interessa, sto solo raccontando quello che vediamo per tutti i comuni. Allora, c'è una, chi va a Roma in questo momento e va a farsi un giro in questi bellissimi parchi che si chiamano Villa Borghese, Villa Pamfili, Villa Ada, il Gianicolo, insomma, nota più o meno sempre la stessa cosa: erba alta, fieno, addirittura si arriva a un metro con le spighe, ma che sembra il Mulino Bianco, ma manca solo la raccolta del grano di mussoliniana memoria. Forse stiamo già puntando a Roma all'autarchia, all'autogestione. Io capisco il chilometro zero, ma fare il grano proprio nei parchi storici di Roma. Il problema è noto: il servizio giardini del comune può contare su appena 136 elementi, un giardiniere ogni 30 ettari. Erano 1310 anni fa, periti agrari, botanici, operai, tra l'altro una squadra piena di eccellenze. Rolando Zandri continua a vincere, che è un ex tecnico del servizio giardini, continua a vincere concorsi botanici in mezzo mondo. La sua ha vinto anche un premio per una rosa che si chiama Rosa Villa Borghese, cioè la gente che va delle qualità e delle professionalità. Che cosa è successo? La Raggi qui non c'entra niente, l'hanno fatto le amministrazioni precedenti. Il ricorso selvaggio all'esternalizzazione ha prosciugato gli organici all'osso e dopo le infiltrazioni mafiose, legge la voce Buzzi e Carminati, mafia capitale, quindi da parte delle cooperative legate a Buzzi e Carminati, ci sono state solo due gare europee per affrontare il problema, orizzontale e verticale, e cioè prati, aiuoli, ma anche gli alberi, e altri 10 gare europee. Dopo mesi e mesi di attesa, di assoluta inerzia, nulla è stato fatto. Attenzione, perché con il caldo di adesso, io non voglio menare sfiga, però il problema dell'erba alta è anche un problema di controllo dell'infiammabilità di questi parchi. Qualcuno si ricorderà cosa avvenne a fine luglio 2012 alle pendici di Monte Mario, perché c'era erba alta e secca. Comunque, andiamo sul GR24 e poi facciamo gli ultimi due posti prima che mi deprimi. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30. Naturalmente qui su Radio 24. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13:45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13:15, container, con Massimo De Donato. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Andiamo al, avevo detto che eravamo terzo posto ex aequo tra ATAC e Cura dei Parchi Romani. Perché? Perché sull'ATAC, come avrete letto, immagino, la situazione sta ulteriormente precipitando. L'ATAC è la municipalizzata di Roma, perché tra guasti e incendi ai box ormai siamo a un autobus su tre che non va, e un milione di corse che sparisce nel nulla, saltano il doppio rispetto a un anno fa. E qui però, così come ho detto che la gestione del parco non c'è nulla c'entrava l'attuale sindaco Raggi, perché la decisione fu presa negli anni scorsi, qui bisogna dire che il raffronto è su un anno fa per quello che riguarda l'ATAC. Io ancora ricordo quando la prima cosa fu rimuovere il direttore generale Tigheri, che sarebbe mosso risparmiando sui furti, sugli sprechi, sull'assenteismo, con l'ex assessore a quel al tempo. Allora, siamo al doppio di un anno fa, 12 milioni di chilometri spariti nel nulla, un milione di corse saltate, ogni corsa in media sono 12 chilometri, fanno poche ore di servizio, gli escono dalle officine e poi rientrano nei box, guasti, fusi, perdite d'olio, perdite di benzina, motori surriscaldati, gomme che si sgonfiano in un secondo, i cambi che saltano, i freni difettosi, e questo costringe i cittadini romani, le vere vittime, a restare sui mezzi pubblici più a lungo di tutti gli altri, 79 minuti in media, mezz'ora in più di un bolognese e 15 minuti in più di un milanese. Tra l'altro, nel 2016 gli autobus a Roma hanno percorso la bellezza di, appunto, di 12.600.000 km in meno rispetto a quelli programmati. E la media degli autobus che restano nei depositi è pari al 36%, un'incongruenza che vale milioni di euro, perché l'amministrazione paga ATAC in base al servizio effettivamente erogato, e quindi minore è il servizio, minore è il corrispettivo pagato. Facendo una media annua, sono rimasti nel deposito di Acilia nel 2016 il 40% degli autobus, il 34% nel deposito di Grotta Rossa e addirittura il 52% nel deposito di Monte Sacro. Peggio va sui tram, quasi la metà è rimasta parcheggiata. Su 2018 vetture, solo 1200 sono effettivamente andate in strada, e questo al netto dei guasti in corsa, cioè mentre il mezzo sta erogando servizio si può anche rompere. Superiori ogni giorno a più di 100 ogni giorno. Numeri ufficiali: le tre linee della metropolitana hanno perso per strada 982.000 km l'anno scorso, pari a 80.000 corse suppresse. Le linee di superficie hanno invece macinato la bellezza di 12 milioni appunto e 600.000 km in meno, il doppio rispetto al 2015, un vero e proprio record. Più 48% le soppressioni, causate soprattutto dalla voce guasti vetture, più 200.000 le corse perse rispetto al 2015, imputabili alla vetustità del parco aziendale. E poi la riduzione del servizio metro ha colpito soprattutto la linea A, mezzo milione di chilometri in meno, il 12% in meno. La ragione è attribuibile, sono saltate 30.000 corse dalla metropolitana l'anno scorso sulla linea A, circa il 40% del totale, ma ci rendiamo conto. La ragione è attribuibile alla mancanza di materiali, ossia pezzi di ricambio. Poi c'è anche la mancanza di personale, macchinisti, che ha fatto appunto evaporare 21.000 corse, di cui 13.750 sulla linea A. Non ho altri commenti da fare. Al secondo posto, mi dispiace non averla vista ieri quando abbiamo avuto ospite, mi sono legato, delle Ferrovie dello Stato, perché la stazione di Afragola, costata 100 milioni di euro, fatta fare a quella grandissima architetta scomparsa, Zaha Hadid, e che servirà come porta, come snodo, proprio per quello che ci raccontava ieri il ministro delegato Mazzoncini dell'FS, dal 2022 l'alta velocità verso Bari e poi l'alta, diciamo, capacità verso Reggio Calabria, lo snodo e Afragola. Insomma, inaugurata alla presenza del Premier Paolo Gentiloni, del Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio, però la Procura di Napoli Nord, coordinata da Francesco Greco, non solo ha già mandato un'ispezione dei NAS e dei Vigili del Fuoco, dove è stata fatta una pessima figura perché ci si è accorti che non c'erano le uscite di sicurezza a norma, non c'era il kit per il pronto soccorso, non c'erano i defibrillatori, e non c'erano le condizioni territoriali d'aria funzionanti. Mancava anche l'autorizzazione edilizia per il bar della stazione. Insomma, l'inaugurazione fatta così, pizza e fichi. Ma adesso va anche peggio, perché la procura sta indagando sul terreno su cui è stata costruita la stazione di Afragola. Potrebbero esserci rifiuti speciali di ogni genere tombati nel sottosuolo, perché quelle terre erano, diciamo, prima campagne abbandonate. Sappiamo che Afragola è il famoso triangolo con Nola e Marigliano, il triangolo scelto dalla camorra, questo ce lo dicono le indagini, per sotterrare i rifiuti, cosiddetto triangolo della morte. E sappiamo che lì c'entravano anche le multinazionali del nord Italia, che facevano affari milionari con la camorra, e anche multinazionali del centro Europa, che andavano lì a smaltire tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici. E tant'è che proprio vicino da Fragola la procura di Napoli scoprì tutto un insieme di rifiuti sotto la linea dell'alta velocità. E quindi la procura ha chiesto un'inchiesta, ha ordinato un'inchiesta per valutare che cosa c'è sotto, e partiranno con i carotaggi. Sperem. Andiamo al primissimo posto della settimana. And the winner is... Visto che ne parleremo fra poco, parleremo delle banche venete fra poco. Il primo posto della settimana non è tanto sulla gestione delle banche venete, perché lì uno dice, beh, soldi privati mica tanto, visto che adesso non abbiamo ancora capito se ci costerà 4, 5, 6, 7 miliardi di soldi pubblici l'ipotesi intesa San Paolo con la Bad Bank, o comunque 3 miliardi e 7 che dovremmo mettere comunque nelle prime ipotesi di salvataggio. Vi invito a leggere, e dico solo questo, il libro che ha scritto l'ex magistrato di Vicenza, fino al 2009 giudice in servizio al Tribunale di Vicenza, ce ne siamo già occupati, quella che cercò disperatamente di indagare sulla gestione Zonin, fu poi trasferita e sanzionata, lì ci fu una vicenda in cui, nonostante il mal di schiena, lei era regolarmente in vacanza, aveva svolto delle attività sportive in mare, fu appunto denigrata, ma il vero problema, lei si chiama Cecilia Carreri, è che lei ha cercato per anni di mettere sotto inchiesta il manager della banca. Ha scritto un libro che uscirà il prossimo 29 giugno per i tipi di Mare Verticale, e si intitola Non c'è spazio per quel giudice, il crack della Banca Popolare di Vicenza, 350 pagine durissime, dove arrivano decine di nomi e cognomi di imprenditori, politici, giornalisti e magistrati, tutti collegati a una rete d'affari. E lei accusa espressamente il procuratore capo di Vicenza, poi è andato a Treviso, Foiadelli, sarà un caso, ma i due crack si chiamano Vicenza e Treviso, che tratteneva su di sé le indagini che riguardavano i processi più importanti della città. Accusa anche tutte le volte che ha aperto un fascicolo a carico di Zonin, che andava dal falso in bilancio alla truffa, grazie anche alle segnalazioni di alcuni ispettori della Banca d'Italia, in questo caso, segnalando il conflitto di interesse per cui Zonin usava la banca come cassaforte personale per l'attività del gruppo, così scrive la Cecilia Carreri, la mancanza assoluta di controlli istituzionali e quant'altro. Nessuno si opponeva a Zonin, e poi racconta tutto insieme di ostacoli che ha ricevuto nel corso della sua carriera. E tutte le volte che hanno messo i bastoni tra i piedi, e noi vogliamo ricordarlo come primo posto, perché siccome questa vicenda non è più privata, addirittura lei ricordo come, oltre all'ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, nel 2013 Zonin aveva assunto anche Gian Andrea Falchi, capo della segreteria di Mario Draghi, che aveva diretto una delle ispezioni sulla Popolare di Vicenza e aveva piazzato l'ex prefetto di Vicenza Sergio Porena, già probiviro della banca. La lista è lunga, comprende anche il figlio del PM Paolo Pecori, diventato uno degli avvocati della banca, tutte cose che cita lei nel libro, e conclude con una cosa sugli attuali magistrati a Vicenza. Dice l'ex magistrato di Vicenza Cecilia Carreri: è clamorosa la mancanza dalla parte della procura di Vicenza di sequestro di beni e patrimoni a garanzia delle parti lese, di ordinanze cautelari di arresto e carcerazione. Tutti gli indagati sono rimasti a piede libero e hanno potuto tranquillamente inquinare le prove o fuggire all'estero, fare sparire il loro patrimonio personale. Dice il giudice: mai vista una cosa simile. Set free. Allora, andiamo. Tra l'altro, dovremo parlare di Vicenza tra pochissimo. Andiamo sul traffico rapidamente. Poi chiederò invece a Stefano Caccavari, che è fondatore di Mulinum. Buonasera, Caccavari. Buonasera a tutti. Io ci tengo molto alla sua startup, perché più che positiva come esperienza. Tra l'altro, lei è calabrese, se ricordo bene. Sì, esattamente, San Floro, in provincia di Catanzaro, il capoluogo. Allora, guardi, siccome noi portiamo sempre la startup per tirarci su di morale, e il suo è un caso particolarmente virtuoso anche perché si sviluppa in una regione difficile come la Calabria, le chiedo solo la cortesia, ci risentiamo lunedì, perché ho degli aggiornamenti in corso che stanno arrivando sulla Popolare di Vicenza e sul salvataggio delle due banche venete che vorrei dare, e lunedì invece affronteremo la vostra iniziativa, come è nata, un'iniziativa bellissima, non voglio anticiparla, perché insomma lei ha recuperato l'ultimo mulino a pietra della Calabria e si è inventato Mulinum, poi la racconteremo per bene. Intanto le auguro buon fine settimana e le do appuntamento a lunedì. Caccavari, grazie, un saluto a tutti e vado sul traffico. Focus Economia. Dunque, qualcuno mi scrive anche lei si è unito al coro antiraggi. No, guardi, si è sentito la classifica. Abbiamo precisato che sul tema dei parchi la Raggi non c'entra niente, perché la decisione di esternalizzare tutti, diciamo, i curatori dei parchi romani è fatta dalle giunte precedenti. Se però c'è il doppio di mezzi fermi e di chilometri non percorsi da autobus, tram e metropolitana a Roma 2016 in un anno, e il confronto lo fai, non posso far finta che il sindaco sia un altro. Le banche venete, voglio capire da Marco Ferrando se alcune voci forse magari sono orientate di un'ulteriore difficoltà dopo il piano presentato da Intesa San Paolo si stanno concretizzando. Io spero chiaramente di no, perché vorremmo tutti vedere la chiusura di questa vicenda, e poi raccontiamo anche che cosa prevedrà la nuova versione. Marco, buonasera. Sì, buonasera a voi. Allora, sappiamo che l'offerta di Intesa prevede Good Bank, cioè la parte di tutti gli asset sani di Vicenza e Veneto Banca, a un prezzo simbolico di un euro. Però l'operazione è subordinata a un intervento legislativo del governo, oltre che via libera delle autorità europee, perché il Consiglio dei Ministri dovrà emanare un decreto legge per definire la procedura del piano di salvataggio e far capire anche che cosa sarà nella Bad Bank. Tutti gli ascoltatori interessati al tema mi chiedono che cosa andrà nella Good e che cosa andrà nella Bad, e dove andrò sostanzialmente io, correntista della Popolare di Vicenza o di Veneto Banca. Ma dunque, parlando della spartizione, sostanzialmente nella Good Bank, che di fatto è Intesa, quindi verrà trasferito Intesa, le filiali con i clienti, diciamo, buoni, quindi tutti quelli che non hanno crediti in sofferenza o non sono a un rating particolarmente basso che li fanno ritenere a rischio sofferenza, quindi clienti normali, depositi, i clienti corporate, quelli che hanno anche conti titoli, insomma il cliente, diciamo, tipo che non ha mai avuto problemi particolari con la banca diventerà un cliente di Intesa. Probabilmente la rete delle filiali verrà razionalizzata, perché già la fusione di Veneto e Vicenza prevedeva evidentemente delle ridondanze, figuriamoci visto che andrà a inserirsi nella rete di Intesa, però insomma questo è un rimescolamento che fa parte ormai delle situazioni che accadono naturalmente, diciamo così, ai clienti bancari. Invece nella Bad Bank finiranno sicuramente i crediti deteriorati, parliamo di 20 miliardi lordi tra sofferenze e incagli, dicevamo i crediti quasi deteriorati, gli analisti stimano 2-3 miliardi, le partecipazioni che possono essere vendute e il contenzioso legale. Non dimentichiamo che a marzo le due banche hanno chiuso una procedura di conciliazione con i soci che avevano sottoscritto le azioni, hanno aderito un circa un 70%, c'è un 30% di fatto a rischio azione legale che se la vedrà con le Bad Bank, quindi essenzialmente con quel che resterà delle attuali Veneto Banca Popolare. Allora, un'altra cosa che mi chiedono ed è giusto chiarire di nuovo, se dovesse passare, uso il se, l'offerta di Intesa San Paolo, decadrebbe in automatico il piano originario, cioè quello che prevedeva attraverso il decreto salvabanche, che ha stanziato in tutto 20 miliardi, una parte va al Monte di Paschi, ma quello che prevedeva l'ingresso dello Stato del Tesoro con i 3,7-4 miliardi, e dove la Vestager ha detto no, dovete mettere un miliardo di privati, da lì si è rincasinata tutta la situazione. Quello verrebbe meno a quel punto? Assolutamente sì, perché si entrerebbe in uno schema appunto completamente diverso, che però non esenterebbe lo Stato dall'intervento, anzi le stime fatte in queste ore, insomma in questi giorni, ci dicono che probabilmente l'esborso dello Stato sarà superiore, perché è comunque intesa, ha posto delle condizioni tali per cui anche, diciamo che tutto andrà rimesso a nuovo, non solo a nuovo, ma alle condizioni di intesa, quindi che è una delle banche più solide in Italia, e quindi per dire gli asset che usciranno e verranno trasferiti intesa andranno prima ripatrimonializzati. Ecco Marco, ma alcuni mi chiedono, ma allora perché se lo Stato deve metterci fino a 5-6 miliardi, ipotizzano alcuni, preferire questa ipotesi all'ipotesi iniziale? Io aggiungo perché non si trovava il miliardo dei privati messo così, quindi l'unico interesse dei privati è stato quello di Intesa San Paolo, però vorrei la tua versione chiaramente. Sì, sicuramente hai ragione, nel senso che si è per una settimana, anche due, tre, insomma, cercato di fare l'ennesimo giro di tavolo, diciamo così, tra le banche, le assicurazioni e le fondazioni, ma nessuno, a parte Intesa Unicredit, si era dichiarato disponibile a fare la sua parte. Quindi quel 1,2 miliardi che servivano a chiudere il conto del vecchio piano non si sarebbero trovati. Aggiungerei anche un'altra questione industriale, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il piano A, quindi quello con la ricapitalizzazione dello Stato, avrebbe risolto il problema di oggi delle due banche, perché le avrebbe ricapitalizzate, ma di fatto lasciava in piedi un soggetto, pur a valle della fusione, sicuramente non forte. E quindi noi abbiamo fatto tante volte il parallelo col Banco Popolare, il Santander, meglio per sul medio-lungo periodo, dal punto di vista della sostenibilità complessiva, che le due banche finiscano in una banca più solida. Allora, poi qualcuno mi dice, ma è possibile che uno subisca il diktat di Intesa San Paolo? No, guardi che non c'è nessun diktat. Intesa San Paolo è l'unica banca che si è fatta avanti per dire io posso rilevare queste attività di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza. Mica c'è nessun diktat, anzi il governo deve fare un decreto e poi deve esserci l'ok della Commissione Europea. Uno può anche dire no grazie, bisogna capire qual è il piano alternativo. Bruxelles ha bocciato quello che era il piano iniziale italiano, mettere tutti i soldi, diciamo, col decreto salva risparmio e non farne mettere dai privati, ha chiesto 1,2 miliardi di euro dai privati. Insomma, qui siamo con il tempo che, come si dice in questi casi, stringe. Ne ringraziare Marco Ferrando, do anche l'ultimo aggiornamento di borsa, che come ricordavo ha chiuso con un meno 0,46% Milano, in linea con Francoforte meno 0,47, Parigi meno 0,30, Londra meno 0,20, Dow Jones invariato, Prismian più 2,5%, Azimut più 1,35%, Luxottica più 1%, Banca Generali più 0,70%, Mediaset più 0,60%, IUX Santa Portè mezzo punto percentuale, giornata poco mossa oggi, Salvatore Ferragamo meno 2,70%, Brembo meno 2,20%, Mediobanca meno 1,60%, UBI meno 1,5%, Saipem meno 1,30%, come Banco BPM, Fiat, Chrysler l'1,20% lo perdono, Buzzi Unicem Eterna, migliore e peggiore in assoluto, Gala più meno 6,37%, e Equity più 21%. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, l'augurio di un buon fine settimana, un ringraziamento a Mauro Del Cone e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, un augurio di buon fine settimana a voi, soprattutto a partire da chi dovrà trascorrerlo lavorando. Ci sentiamo lunedì. Radio 24, libera la voglia di fare.